Chi è? Avanti, chi è? Ufo! Chi è? Luca! Chi è Lu? Lu, buonasera, dammi un controllo, come sta arrivando di radio, dimmi se è chiara, sporca o cosa. Aspetta. Bene? Sì, va benissimo. Più chiaro dell'altra volta, più sporca dell'altra volta? No, io ti ho sempre ascoltato bene di radio. Perché sto provando una gran play piccolina che ho costruito. E vabbè, segnale a fondo scala. E siamo a due passi. Tore non c'è, no, Tore! Va bene, buonasera, Bacchisa, va bene. Buonasera, una carrozza, fondo scala, perfetta. Oh, è appoggiata sul muro del terrazzo, non è piazzata, è appoggiata sul muro del terrazzo. Oh, ti sento perfettamente, tranquillo adesso. Ok, no. Adesso gli metto un contrappeso, sia che il vento stante me la butti giù. Gli leggo qualcosa, perché è appoggiata proprio sul muro del parapetto. Che blocca, così che va benissimo. Buonasera anche a Luca. Ciao Giovanni. Dai un attimino di quel Rick. Via. Gattano si butta in affliggione, ma mi ha dato l'avvolto. Ehi! Ehi, come cazzo so? Ah, Gufo, la frittella sta mangiando. Il pandoro sta mangiando, Gufo. Se non ce l'è il pandoro, prossimo anno. No, che ce l'ha la scorta, ha fatto la scorta. Una alla sera se l'ha comprato e ogni tanto se ne sta mangiando una pezza. Ah, secondo me ce l'ha comprato una pedana. Ebbene, a quanto mi ha detto lui, ne ha parecchi. Poi lasci pure. A uno se la porta da garage, la porta su a mangiarselo. Bobo, e tu che se ne ha furti. È un reddito lui, vive di reddita, per cui è tranquillo, Ah, così è. Sapete. Oggi venerdì va a ritirare lui. Ah, ogni appena è andato a ritirare. Ho capito, avanti Bacchi. Noi siamo i soli Bacchi, meglio solo, mi hanno accompagnato. Grazie al tanto, è sempre mangiato mandoro. Con la spulla, con la pura di lungo, sfumante, frizzante. E boh. Tutti i bolli sono governi, li ruffini. Buoni anche se frizzioni col frizzantello. Bello me. Buonasera a tutti. Riprendete voi che sto finendo una cosetta. Ammetta di grazia, che di frizzione con frizzantino, rimane a galla, ammetta a dirlo me, proprio lo sciogamo. Ehi, dilla a tutti. Se non mangi le frittelle e poi bevi, sai che rimane a galla. Ciao Gianmarì, ciao a tutti. Ciao Ru, buonasera. Ma grazie, ma sempre magnesi. Bello pura. Se ne ha fissato la vaga la stanca, il caro ti giù cura un vaccone. E te, Sbacchi, a Graziano, e te? Ah, a me non mi interessa, io sto governo in ginnastica, peggio paretto. Vivo, più a brincarlo, bole che c'è all'intonto. Ciao, buonasera. Oh, ciao, ne mi ha cubrincato, oh, era così. Ma dico, se continua così, io più a brincarlo che c'è all'intonto. Sì, ma che? Ciao Marino, anche a te. Maria sta lavando, troppo usciamo. Ah, dovete uscire, io vado finito avanti, Francia, mi sto godendo una passata al bagno. È finito, fatta, per oggi. Non avevo gana, ne manca verità, non mi sono cantata, oh. Sì, è una sarigliante. Se no, tale che pure la grazia è una padà, così, te ne impignato pure a Edo. Ah, allora non posso andare da batta o vai cura già lì ridi l'impegno è quando non posso andare da ora la figli lo ah così intendi bacchi ah bubu una cosa la capisci bacchari dai oh lì hai una cosa mi vuole un carruccio e li hanno ciao mari mi vuole un carruccio e ne vedo un paio a fare doccia fate ma si resiste. Oh ya, Graziano, Graziano, chissà che io riuscirò a pulire la piombo. E ha fatto bene che te l'ha detto allora. Ehi, è fatto qua. Grazie Graziano fa di peggio ha un po' da comportarsi troppo a modo suo ecco dai e allora cazzo faccio un pinello fumante dopo frizzantello moraretto e allora da poi ti faccio da pure e fucino ti faccio il bambino mania già risa che fucino di tutto marito. Tu a Bacchisio, almeno che venuti tu a potersi di credere a Bacchisio. E che ci vedi che io tu fai bla bla bla però chi dà ragione. Ma chissà che si credi a me. Vi pensiamo là, vi pensiamo, avanti tu. E la faccio mandato la foto delle chiacchiere, anche faccio pure le chiacchiere faccio. Però beh. Io mi ne arrivi da forte a me. Sì, te l'ho mandata, però ti ho mandato quella delle frittelle. Beh, vediamo a vedere. Allora vai a vedere se io. Su WhatsApp, mi pare che l'hai mandato tu. No, quella con le chiacchiere no, quelle con la frittella e il frittantello. E anche a Luca l'ho mandata su WhatsApp. No, io mi sto vestendo che tra un po' esco. So, cioè, freddo non ce n'è, però meglio vestirsi, dai. Ma dico, passeggiando in casa, è un casino, non fa. L'arietta fresca c'è sempre. Ehi, l'aria è fredda, eh. Quando vedo la lucciata del ritorno, si cambia a me. La veranda, e ci va fuori congelato. Il frigorifero va. Infatti, la matta di cosa, fammi una lacca a fare, ma fai il di cura. Devi essere tutti da fatta, ti fai il treno, una gela frigorifero, in macelleria. E mangiamo, stamane la tutta la città, tutta la vibrata, tutta fuori di leva. Qual è la comune qua? Il freddo e il caldo magari che esce l'acqua. E qui fa lo stesso, nonostante ci sono le pentole in alto. E poi a parte gli schizzeri che passa dalle guide, da sotto e da sopra. A parte ogni tanto lo fatti, quando fai un bel freddo e ti faccio 30 ore. Ah, no, magari dice c'è anche un po' di calore, la cucina, l'acqua. E dal bacone del bagno. E fa un bel di condensa. Papà, non ha problemi, la verità, Bacchi, sei tranquilli sempre. Ma grazie a quanto ho sentito, c'ha problemi. Vero, speriamo di sì, uscire grazie. Ma quindi cucina la tengo chiusa. Peraltro il calore già fa anche in veranda, e non lo fa. Solo da quella luce, dalle chiudi da la zuppa che incomincia a diminuire un calore. Cosa succede? La veranda crea la condensa, la vetrata e si era tutta di gocce di Eva. Ma si sì, sono le gocce di Eva, avrete detto a fare questa commessa, sarà mangiare le frigioni, Luca. A chiara tu a zabu da bocchi lotti edo. Così è lui. Siga io? Sì. Non più di tanto, Gio Marie, no, no. Sì, lo mangio qualche dolce, ma non sono di quelli. Piace più il salato, dai, sono sincero. Fossi un mangione delle frittelle, invece. Insomma, le mangi, ma caratamente va bene. Meglio così, dai. Grazie a tutti e tre magnati. No, non è ancora per salute. No, ma domani a mezzano mangia bene sul balettone in Bauli. Magica festa. Una babbaccia. Buona legge, domani a mezzano a colazione, dice, E ancora di ripresa a fare colazione. A risetti. Va bene, mi raccomando, sfumate gli avviai. Sì, c'è anche la bottiglia. No, però è un vino sfumante, bianco. Se va a essere buono, è già il frigorifero. Ma vivo lo frizzante ci vuole, grazie a col panettone, grazie. Specialmente quella babassa e attira, Erano insieme al panettone, nella confessione quello, Paoli. Era una confessione completa, dunque si era preso bobbito e mangiato con ghiaccio. Però bene, le bollicine ce le ha. È importante allora che ci abbia le bollicine, quello è importante. Avanti, Bacchi. Quello non ti apre, adesso tu non hai detto, non ti apre la porta. Se filato, vediamo la con il limone, perché tu scottate la marmellata alle ciliegie. Capita. Ma allora bisogna fare un'improvvisata però, anche se lo sa Brianna io. Allora grazie, prepara tutto e ti mangiare, anche lo posso poi mi vuoi, vai, dimmi l'orario. Visto la Bacchi, cosa da dirti? Bisogna fare anche di petto e burro, grazie allora, E lo fatico dobbiamo lui burro allora. E così che impara. E noi dobbiamo attirare sti casa prima di passare, ma chi? Quando lo sono lassù, io non penso, non ci fai fare prima. Grazie alla costa che si passi il vicino, passi dall'antenna mia, grazie alla costa e ti vadi qua in terra subito. Ma che aspetta un attimino che non sono là. Vabbè dai, ci siete dopo, ci sentiamo dopo, se no alla prossima, dai, sto uscendo. No, grazie, ma dai, consegniamo un tablet che ho riparato. E se no, non mi da zitti. Allora vai, ancora lì, Sì, perché ho anche anticipato io, capito. Vabbè, a più tardi ci siete, se no domani, ciao. Da me no, Bacchi, da me arrivi perfetto, appoggiato, coricato, messo a capo, arrivi benissimo, vabbè, sei di fronte praticamente a me. Niente, io sono sempre nel solito posto, aspetta, lo addrizzami, lo faccio sul tavolo, vediamo. Sì, malissimo, e a momenti non ti sentivo per niente. Adesso così ti sento, però lo devo tenere inclinato. qua a vedere che l'ho spostato e ce l'ho dritto. Adesso già ti sento, però ce l'ho sopra il braccio, nella porta di cucina. Sono seduto nella sedia. Aspetta a vedere che ho sentito. Abbati vuole entrare? Ma che già chi è che non ho capito chi era, l'ho sentito a tratti. Fabrizio, ma tu sei? Boh, anche a te ti sento in questa maniera, è cuccato. Sarà perché c'è il computer vicino e sta caricando. Adesso così ti sento bene, però è coricato, non ce l'ho in mano, è cuccato, quasi coricato. No, secondo me anche per un computer sotto carica qua. E se lo lascio sul tavolo l'altro giorno ti sentivo bene, abbattito lo stesso. Aspetta, me lo metto in salone a caricare, lo stacco da qua, riprendi tu Bacchi. Qua. Sì, buonasera. Non sono uno squaletto, Che va bene che non sono uno squaletto. Buonasera, signor Bacchisio. Dillo tu se sono uno squaletto. Ah, io ti ascolto benissimo. Chiaro, tondo, limpido. Come il re Coauro proprio. Limpido, limpido. E andava, e catta, vedi chi sono i voi. Solo che... secondo dove sei, non senti sia a destra che a sinistra un po'. Se sei buono, l'antenna è dovuta cosa avere. Ciao Tore, signor Bigero, come siamo? Bigero sarai tu. Gatta, grazie, ma non ascolti bene a Bacchisio. No, in cucina c'avevo il computer, adesso l'ho levato, adesso entro e provo a vedere se lo sento, perché sto piegando queste mollette da sulla lavatrice. E provo a vedere con l'antenna se lo ascolti bene, perché con il portatile è un po' difficile che l'ascolti bene. No, già lo sento col portatile, ma lo senti per me due RM, adesso provo. Aspetta, mi rimetto, ovvero, e provo. Prova Bacchi. No, vedi che avevo ragione. Prova di nuovo, te lo lascio sul tavolo. No, ti sento benissimo. Vedi che c'era il computer che dava fastidio, anche se era sotto carica, la batteria del computer. Tore, lo sento bene. Poco fa lo sentivo in mezzo al QRM, anche a Fabrizio. Prova Fabrizio. Sto usando il GT3000 della GT3 TP e Novulovu. Questo arriva direttamente da Hong Kong insieme alla ciotola del Rizzi. Sì, no, già c'ha un buon apparato, solo che è portatile e secondo dove si mette non lo ascolti. Ecco cosa è. Aspetta, qui ti sento meglio, a capo tavola, prova Fabri, perché mi sono messo a capo tavola. Sì, anda veda, già va benissimo. Vero signor Bacchi? Tore! Bello! Non sono riuscito a trovare un'antenna per la 27, buona. Da balcone però, non per la gabbicina, per finestra che serve a un amico mio, ad una gianduna, avevano mamma come si chiama, però non ci sono riuscito a trovarne una. Una bolla. Ma dove, in vendita? Su internet. Adesso tu mi dai via io, ma non si va nulla su luce. E quella lì io ce l'ho, però non gliela voglio dare perché non è che imbatti assai. Quel bastone dritto sarà 90 centimetri, una cosa del genere. Ce l'ho io quella, però non funzionava molto bene. Ok, non c'è problema. Bisogna guardare bene, bisogna guardare bene, perché non ce ne sono molte in giro. Ah, se guardi, se ce ne trovi una discreta da balcone, però mi dà appendicida e la ringhiera, ruba di dindì. Se ne trovi una che non sia grande. Dimmi. No, della 27 mi però fa. Non è per me, è per uno che me l'ha chiesta. Io ne ho una, però è che sul ruccio di cobro che non si fa nulla. No, non ce l'avevo io, avevo provato io qua, staccata la ringhiera. Per carità, non pigliava nulla a bacchi. Adesso non lo so perché magari qui io c'ho il grattacielo di pronto e però non prendeva e l'ho data quella lì, l'ho chiusa di montata, ho fatto un casino, l'ho regalata a Luca, ma quella base magnetica stai dicendo. Già lo so dove abita, che lì c'erano anche quei due fratelli che tanti anni fa ci avevano. Oh, la manto va sul tetto, non mi si farà della gabbia. E io pensavo di trovare qualcos'altro di meglio, non lo so. E se no lì che comprerà una di chi sì, una base magnetica. Nel ferro dello stendino dovrebbe attaccarla, però adesso non ricordo se fa un tubo lì, dovrebbe attaccarle bullunali, caffè, piastra di ferro e poi sopra ci appiccica la base magnetica. Anche io l'avevo provata, l'antenna sulla finestra funzionava bene. Il fatto è, bisogna metterla bene, bisogna farla uscire un po' fuori, oppure si attacca un tubo a rubacone, alla ringhiera, se vuoi sì. Hai compreso? Ma non fa che c'è la vetrata, il barabetto giù e muratura, ci sono solo i ferri di stendere, capito? L'unico ferro che va è il ferro divisorica. Dello stenditoio esterno, capito? E può fare attaccare una piastra brunale al ferro da stendere e sopra gli appoggia la base magnetica. E al limite, perché adesso mi ricordo che aveva un ferro angolare nello stenditoio o un tubo. Al limite applicandoci un pezzo di piastra da 5 mm, non centimetri, da 5 mm, bucata. Buonasera, buonasera, buonasera, mi ascolto un po' a livello QRM, anche Garzia, ma Garzia, ma come mi sta usando? Un attimo, non è che io ho ascoltato, ma sì, non è che io ascolto. Cambio antenna, vi chiamo io, là, 2 minuti che vi chiamo io, avanti sto. Chi c'è? Anche Marino, papà. Grazie, ascolto. Ma chi? Io devo andare a prendere la signora, ci sentiamo dopo se faccio in tempo, ok? Grazie a tutti. Ok, Fabri, alla prossima se non ce la sentiamo. Ciao. Dimmi, parlava ancora per tempo, Fabri, che sarà? E allora? Andate, ok, a più tardi se coincide, se no la prossima Fabri, ciao. A te un attimo la chiave mia moglie. Sono entrato, E beh, Bacchi, se scaldarsi e controlla l'anno se c'è stazionale. Te l'hai ordinato per il PMR, un bel costo, ma solo per il PMR serve, anche per la 26. Ma non è possibile, ma dove c'è una scalda? Ma quante navi ci fu? Cos'è della testa? No, in quello... in quell'altro che c'ho, quello da tavola, quello veicolare. Non lo so se quello mi insegna a me. Sì, e qui c'ho quattro possibilità di cambiare frequenza nel display. E te lo appoggio. Va bene anche a me. Ciao. Ma sono fatto, sì. Sono a casa, sì. Sì, quello lo vedo stesso, lui mi segna le stazionali e tutto. Perché è tutto, lo vedo da lì se c'è stazionale, direttamente dall'apparato, di quello della 26. E anche, mi sembra in quello... Avevi trovato al volo. Per voi. Allora, stazionale a giugno, il problema ce n'è da un, la natura è da un inizio, ancora e la di due e ultimamente la di tre, la di quattro. Dove sta, dove sta? Va bene, sono passati tutti, gli ultimi come sono passati in male. Buonasera mia, anzi grazie a me, comunque vi ascolto quel re, c'è invece molto problema presto, non so se sono io o se siete voi, avanti grazie. Venga avanti, però la batteria è morta qua, adesso stavo parlando col con... Ma è brutta, si parla la tenda di Pau, va lì su. Ho capito. Adesso sto bene, oh, grazie, ti ho ascoltato abbastanza bene, dai, avanti, va chi? Ciao fatto Giulio. Ciao Mari, ciao, ciao Vacchisio e ciao a Graziano non lo sento. Ma l'antenna di plastica va, pagisco che non li tengo Graziano. L'antennino di chi sono portati, che è di plastica, pagisco non li intendo. Grazie, a te buona piombo. C'ho la batteria sotto carica, Giulio! Sta caricando il portatile! Ehi, allora tienitela sempre bella carica! Metti la bagno la notte la devi mettere sotto spirito, oppure dentro l'accetto, lo sai come si scarica bene, non si scarica più. Ciao Maria, riprendi. Allora Giulio, oh, grazie. Ah, no, no, stanno benissimo, con una notazione bella chiara, ma poc'anzi lì, quello è quel rene, anche la chiesa stessa, il rene è quel rene, non lo so. Ok, Giulio, bella, voi terminati. No, noi andiamo piano e lontano. No, ancora no. Sì, diciamo che abbiamo intonacato, dai, c'è da fare solo la parte finale. Per cui già piano piano. E 2 ore al giorno, Marì, senza faticarsi troppo. Sì, va bene, dai. Così vi passa mezza giornata. Bene, avanti, grazie. Ciao, Bacchisio. Scusa, grazie. Benissimo, ti ascolto oggi, Bacchi. Ieri non ti sentivo, ma oggi ti sento benissimo. Proprio bello, pimpante, proprio di quelli come piacciono a me. Ah, hai fatto bene. Ma te l'hai autocostruita? Non hai visto quello che ti ho fatto vedere l'altro giorno, quando sei passato in bottega? Quella funziona, mia, così basta parlare di quelle misure 18 centimetri voglio i radialini per essere sicuro, sia quello centrale che quelli anche a 45 gradi, l'inclinazione, 18 centimetri. E tu sei a dama, quella che ti ho fatto vedere io, quando si è passata in bottega l'altro giorno, no? Non hai visto quello che ce l'avevo in mezzo, è rottami, ce l'avevo buttata così. Quella lì, la base è in legno, tagliata a 45 gradi, poi l'ho forata e ho infilato i radialini in modo che l'inclinazione venisse più su 45 gradi, perché deve essere così, deve essere. Però ogni radiale, sia il radiale che quello centrale, è lungo 18 centimetri, vuole così, la misura deve essere quella. Sì, funzionale, funziona bene lo stesso, non ci sono dubbi. Bisogna poi naturalmente controllare il discorso, come si chiama, onde stazionarie. Però facendole 18 centimetri, guarda, si è a posto, anche con le stazionarie. Sì, va bene, va benissimo, guarda, io ti sento una bomba, per cui va benissimo, però voglio dire, adesso visto che ti arriva da un strumento, te la controlli, se poi c'è da modificarla di qualche centimetro, lo vedi tu. Basta anche che vada bene così, che non ce ne siano lo stesso stazionario, nonostante la lunghezza non dovrebbe essere, non è quella effettivamente quella che deve essere. Io, secondo i calcoli della frequenza, vuole 18 centimetri, capito? Per cui, ma non è detto che non vada bene ugualmente, è da vedere poi quando c'è lo strumento. Sì, l'hai visto quel tubo, quello lì, quello che ti ho fatto vedere, io l'avevo fatto una sera, no, cioè, l'avevo fatta qui, seduto sul letto a casa, ti puoi immaginare, non sapevo cosa fare, me la sono fatta così. E l'ho attaccata con l'adattatore al portatile per provarla. Beh, lo sai che da dentro casa, perché io uso sempre da dentro casa, arrivavo benissimo anche a casa di Claudio, che è più lontano di tutti rispetto a me, capito? È quello che è più distante da me. E mi sentivo benissimo, nonostante che era appena fatto. Pensa che i contatti non li avevo nemmeno saldati, avevo messo i fili e ce li ho infilati a forza proprio per fare contatto i radiali, per cui andava benissimo. Sono chiamato giù, vado subito. Oh Maria, d'accordo. Sì, Bacchi, guarda, io di base ne ho diversi, ne ho basette per poter fare queste cose. Cioè io ho proprio in bottega lo stesso, così, ma ce l'ho da anni, non li ho mai utilizzati. Ma il giorno mi è venuto in mente, hai sbagliato un pezzo di legna, ho messo la macchina a 45 gradi, l'ho bucato, con la punta da 10 avevo quel pezzettino di alluminio che hai visto, l'ho fatto in quattro pezzi, perché era, mi sembra un metro lungo era, e una perché era un metro era. L'ho fatto in quattro pezzi, e adesso voglio provare il funzionamento. Funziona, so che se funziona, ma era solo un prototipo, ma poi non l'ho mai fatta proprio bene come si deve, era solo per provare, funziona bene, se poi la faccio proprio con l'impegno è da mettere in vetrina. No, Marino si è allontanato un attimo, già rientra subito. Avanti, Grazia. E giusto la Gadria. Grazia, sempre bevendo, sai. Ma non lo sentono Bacchì, si vede che si è allontanato. Sì, ma che l'ha visto come l'ho fatta io? Te lo sto dicendo, l'ho fatta io di mezz'ora, non più di mezz'ora non ci ho messo per farla. Tra l'altro avevo anche l'adattatore il PL da pannello. Ho messo con tre vitine e ho messo il filo perché ho collegato i vari radiali, no? Ma l'hai visto come l'ho fatto, no? Per avere contatti. Certo che poi se hai metallo, anziché mettere legno, metti metallo e non c'è bisogno nemmeno di filo più. L'interessante è che sia isolato con lo stilo centrale, e va bene così. Marino lo riprende, si vede ancora non è rientrato. Sì, va così, guarda che può andare bene anche senza i tubi. Passano quattro pezzi di filo in rame, di quello rigido Bacchì, va bene lo stesso, anche se non è grosso non fa niente, anzi sottile e anche più leggero, basta che sia un filo di rame oppure di alluminio e va benissimo, non ci sono problemi. Sì, vanno bene Bacchì, a voglia, alla grande. No, ma se in settimana hai detto che ti arriva lo strumentino, il rosmetro, ti conviene tenerla così e la puoi provare prima per le stazionali, poi te la piazzi eventualmente, così non la tocchi più, ma chi? Ah beh, anche quello già è vero. Sì. E che come capo di discesa cosa hai messo? 58 hai o 155? Ah, ho capito, è quella bassissima perdita, sì. Va bene lo stesso quello, va bene lo stesso. No, non ci sono problemi io. Sì, io non... Funziona benissimo, Bacchì, ti sto dicendo che è come se tu stessi qua vicino a me, seduto vicino a me. Arrivi proprio benissimo, veramente bene. Invece io sono il voglio mi arriva molto disturbato, ci porta molto a quadrare, dico. Qui da me no, qui da me è pulitissimo, proprio pulito. Per cui non ho nessun problema. Vabbè, ce l'ha sul davanzale, magari quando la mette su Marie, può darsi che anche da te arriva così bello liscio, pulitissimo. Riprendi. L'ascolto bene, solo si porta un po' di quadrenne, comunque. Se è un altro così già va bene, dai. Ok, ce la graziamo anche, ma graziamo avanti. Vedete che sono in ascolto, che mi sto sistemando le medicine qua, Mari. Ok, dai, dopo niente, benissimo, là. E così, oggi io sto usando quella lettura che mi hai dato tu, Ok, sì, va bene ugualmente, non ci sono problemi, Mari. No, io sto usando il gommino, io uso sempre il gommino suo, originale. No, non ne ho necessità dell'antenna, non ce n'è bisogno. Uso sempre il portatile col suo gommino originale, per cui va bene così. Vabbè, sono sempre il gommino. Il gommino uso quando sono a casa o fuori, sono in una zappata, da tutto il gommino. Bene, bene, avanti, Battista, qui c'è la focaccia, anche Gia Maria, no? Ok, grazie, adesso, benissimo. Bene, bene, avanti Giulio. Ok. Sì. E adesso chi è questo? No, stavo guardando, no, perché poco sì. Ho controllato in 27, non c'era nessuno, né in un canale né nell'altro. Ho fatto un po' l'ho acceso PMR e ho sentito a voi e sono entrato qua. Adesso invece c'è qualcuno anche in 27, va, comunque. Va bene così. Siamo qua, adesso ci siamo e ci rimaniamo. Riprende Bacchì. Sì, sono sul 10, ma siccome c'è un volume molto basso e non capisco chi è, forse è quel Gianni di Mulos, mi sembra che sia, stando a quello che sento, ma lo sento bassissimo, se no mi disturba il PMR, capito? Avanti, Marì. Sì, tocca anche io, cedo, vieni, non so se c'è la Marco, è qualche altra persona, fuori di lato, adesso sono a casa, sono fuori casa, diciamo, là. Va bene, è così, volevo dire una cosa, Giulio, non me la ricordo, guarda, l'altra cosa volevo chiamare, non mi ricordo, volevo una cosa, dico, già una cosa urgente, avanti giù. Ok, vabbè, quando te lo ricordi mi chiami, Maria, o mi mandi un messaggio su WhatsApp, non è un problema. Per cui, no, io poc'anzi quando sono appena salito ho acceso e c'era Natalino, anzi, a dire la verità c'erano un imbecille che stava fischiando, è già da un po' di tempo che arriva bassissimo e che non dà il minimo fastidio, però fischiando stavano, e anche Natalino ha detto adesso lo mando al diavolo, ma ha detto Natalino. Allora ho sentito Natalino, sono entrato io, abbiamo scambiato le chiacchiere, ma poi è arrivata gente da lui e ha dovuto chiudere. E per un istante è entrato anche Marco, ma sta pranzando Marco, per cui Marco pranza a quest'ora. Ne prende Bacchì. E allora, è proprio così. Ma adesso ormai c'è questa abitudine lì. Se non sono le 7 la sera non entra nessuno. Ma evidentemente la gente si è un po' stancata, dai, diciamo. Vai Marì. Dopo le 8 non c'è più nessuno al testo, non è come altri tempi che si chiudeva 11:30 a mezzanotte, non dire anche la 1. Altri tempi laggiù, altri tempi, più bello, non è una cosa. Guarda, quel fischio l'ho sentito anch'io l'altro giorno, ero in ascolto, ho girato e c'era un fischio, era leggero, era molto basso, però stava fischiando, e basta andare in retta, basta solo fischiare, già si stanca da solo, avanti giù. Eh beh sì, infatti, l'ho mandata al diavolo ieri sera, per cui se l'avrà capito, se non è imbecille del tutto, avrà capito che non deve stare lì a fischiare. Cosa fischi a fare? O parli o stai zitto, o cosa stai a rompere? Perché sente il fischio, lui dice avanti e non entra. Rimane in silenzio per un po' e dopo fischia di nuovo. E allora dai, brucia, chi se ne frega. Vai, ma chi? Sì, perché è così, infatti ieri sera sono stato tutta la sera con la radio accesa qua aspettando che entrasse qualcuno, boh, non è entrato manco un'anima, nessuno, ma è né in un canale né nell'altro, nemmeno su 23, è proprio silenzio assoluto. E allora cosa sto a fare lì? Adesso stasera mi sono salito 10 minuti fa, ed era computer, tutta la sera al computer. Almeno passo il tempo lì e non se ne parla più. Avanti Mari. Guarda, io mi sono appoggiato un paio d'ore, che ho stanco oggi, buona giornata, domani uscirò alle 4 minimo, domani sera. Dunque, sono una cosa e l'altra. E la sera c'è chiusura stampa, giù, c'è chiusura stampa, molte volte accendi e non c'è nessuno, giri diretto, proprio 0.0. E vabbè, sono ormai. Ormai la gente così si è stancata e tutto. Bene, avanti da qui. No, diciamo che a quanto ho sentito sono passato in digitale o Bachi. I radioamatori, il centro degli amatori dice che stanno fatto la radio digitale e sono passati lì e magari non li sentiamo per quel motivo lì. Ma se per quello nemmeno io mai sento più, ma sinceramente non sto nemmeno ascoltando più, perché tanto anche lì non ne vale la pena di stare lì ad ascoltare, no, nemmeno in 40 metri, no, non stavo ascoltando più. In 2 metri poi, io sono una vita se sono senza accendere in 2 metri per ascoltare, figurati. E un po' il 27, un po' PMR e basta, no, niente di più. Poi per il resto mi sono stancato di tutto, dai, vai Mari. Se cominci a girare, a girare non c'è più nessuno, lo stesso, anch'io, aperto ieri sera, ho acceso, stavo girando, neanche beccato, ho beccato uno spagnolo, ho beccato e basta, c'è uno spagnolo, facciamo questo con un altro, e boh, ma, è rimasto un'oretta, dopo hanno chiuso anche loro, comunque arrivava forte qua, forte, adesso mi sta aperta un po' di preparazione, e basta. Non c'è più nulla, sto pensando anch'io quello che hai detto tu e Giulio, prima metà sono tutti in digitale, prima metà sono, hanno comprato apparecchi nuovi comunque, tutti in digitale, bene, avanti da chi? Tu, ma chi? Ma a me nemmeno sembra reale, non ne voglio più, hai capito? Figurati, ma non ci penso proprio, scherzita, ma vuoi scherzare? Ah, non ne vale la pena, dai, perché è meglio rimanere così. Quello che fa è stato, quello che non si può avere non si ha e basta, pazienza. Vai Mari. Basta quello che abbiamo, basta, anch'io ho tagliato. Basta così, la roba mia non è roba nuova, roba vecchia, non mi interessa nulla. Fino a quando funziona. Quando non funziona si ha un po' tutto. Anzi da chi? Compro io, buonasera a tutti. Ciao Giovanni, ciao, capita. E allora? Eccoci qua. Tutti si stanno lamentando che non c'è mai nessuno. Per forza, non chiamano e non c'è mai nessuno. Qua è tutto il giorno acceso, sia il 27, sia il PMR. No, chiamo ogni tanto, non risponde nessuno, cosa vuoi fare? Però io ci sono in ascolto, basta chiamare e ti rispondono. Certo che non si può stare tutto il giorno attaccato all'apparecchio giù. Ma almeno la sera, il 26, la 27 si fa accedere, non sempre in questo PMR. Ma sono già stufo del PMR, attendiamo la 27, che già piace di più, almeno ci sentiamo tutti. Oh no, giù. Infatti l'ideale sarebbe quello, solo che anche il 27, io ieri sera sono stato tutta la sera con la radio accesa, non è entrato un'anima, né sul 10 né sul 23. Per cui, che cosa stai a fare? La gente quando succede così si stanca e allora spegne tutto e non entra nemmeno. Sono entrato io 10 minuti, un quarto d'ora fa, proprio perché tanto si aspetta, tanto non c'è nessuno. E così è stato. Quando sono salito non vedo nessuno. C'era appena Natalino che stava mandando al diavolo una persona che non fa altro che fischiare e basta. uno che magari non dà nessun fastidio perché è bassissimo, Santiago 2, ti puoi immaginare, a me arriva, se che nessun fastidio. Però c'era una tarima, allora sono entrato, ci siamo salutati e poi lui si è dovuto allontanare subito, capito Giovanni? E ogni tanto si affaccia qualcuno a fare questi dispetti, che poi cosa ne ricava non lo so io. Ci sono stati sempre, ci saranno sempre, qualcuno c'è sempre in agguato, come il Pilberri stesso, qualcuno ogni tanto entrano, fanno pernacchie e fanno altri morfie e cosa ci vuoi fare? Basta non rispondere, li lasci fare, magari dopo rimani fermo, dopo un po' magari puoi rientrare e chiacchieri se c'è qualcun altro, capito? Giù. Purtroppo è così. No, io ripeto l'accendo, tu, quando sono a casa è sempre acceso, uno e l'altro. Ogni tanto provo a chiamare, ma se non mi rispondere non è che mi interessi più e tanto. Se ci sono e mi rispondono, ci sono. E se no ascolto e guardo altre cose che c'è da fare, capito? Eh beh, certo, già lo credo. Non è che c'è da mangiare noi il baracchino, per cui ne possiamo fare anche a meno. E il computer, ci divertiamo, la televisione, lo stesso. E se no ci facciamo un giro e forse siamo anche meglio. Però ma chi? Andiamo subito giù, lo chiamo delle poppe. D'accordo. E infatti, io durante il giorno magari è difficile, magari poi la gente magari lavora e per cui sono tutti impegnati, qualche volta la sera, ma più di uno se ne assenta, varie sere ci siamo, varie sere non c'è nessuno e purtroppo capita anche così. Magari ci sono altre cose più importanti da fare, uno chiaro che si assenta dal baracco e fa quello che deve fare, capito? Però io se sono a casa è sempre acceso, se mi chiamano rispondo. Certo che anch'io chiamo, ma non mi rispondono, e allora ascolto, è acceso, e se ne frega. Mi guardo il computer, o la televisione, o faccio qualche altra cosa. Ma chi già si scende in campagna durante il giorno, per cui no, non c'è problemi dell'apparecchio, così è Bacchino. Allora stati riguardato Bacchi, ma ci vado la campagna e fai come faccio io. Ma io pure non ci sto scendendo, scendo così ogni tanto anche per dare uno sguardo. Adesso si comincia magari quello da fare e chiamo uno e me la fa, capito? Per cui non ho qualche cosetta, già la faccio anch'io, ma non è che posso fare più di tanto, capito? Purtroppo bisogna, all'età nostra ci sono gli acciacchi e per cui ogni tanto ne esce una e allora bisogna starci a riposo e immagino che la campagna è importante per stare più bene possibile a casa, tranquillo, senza scorse, senza niente e purtroppo è così. Va bene Giulio mio, ogni giorno se ne va in giro lui, fa bene, allora in casa cosa ci fa? A certe volte io annuio, me ne scendo in magazzino, oppure a dietro qua mi faccio due passi a piedi, se c'è qualcuno chiacchiero, se no mi faccio in diretto, però non mi allontano, ecco, ho magazzino a casa, tutto qua. Anche quando esco c'ho quel portatino piccolino, me lo metto appresso e quello non mi manca mai. E se entrano chiacchierano, ce l'ho pazienza. Sì, è facile che bisogna fare così, e d'altronde cosa ci puoi fare? Davvero, se la gente non entra, pazienza. I tempi belli, stavamo dicendo poc'anzi, sono finiti già da molto tempo. Prima, quando c'erano i 23 canali, soprattutto tutto il giorno, dalla mattina alla sera, anzi dalla mattina alla notte, c'era sempre tanta gente in frequenza, su tutti i canali. Adesso purtroppo tutti sono stancati, tutti quanti hanno il computer, tutti quanti hanno lo smartphone e tutti quanti hanno le comodità, le macchine eccetera, se ne vanno in giro a passeggiare eccetera. E il baracchino diciamo che ha preso colpo. Pazienza, va bene lo stesso, noi i nostri anni ce l'abbiamo vissuti in frequenza, Giovanni, per cui non ci possiamo lamentare. Se poi c'è qualcuno che è ancora che è appassionato dal radio, se vuole entrare già siamo qua. Avanti, va chi? ma così devi fare, Bacchi, e purtroppo non si può fare, io purtroppo non posso fare proprio niente, lo sai quello che mi era successo, anzi, è anche troppo che so, certi sforzi non li potrei fare, ma piano piano li faccio, però domani me ne risento. Tu perché magari c'hai gli animali e è costretto a scendere, però non fare niente Bacchi, non fare niente, che la salute è più importante della campagna. Lo so che qualche cosetta vuoi avere anche da lì, però non sempre può andare bene, capito? Allora bisogna andarci cauti, e quando una cosa non si può fare non le fai, come sto facendo fare io, a me non me la stanno facendo, infatti adesso devo portare, mi sembra che ci fosse albicocchi e pure quei cacchi, e deve venire uno me li porta, magari io ci scendo però non faccio niente, capito? Qualche cosetta magari l'uva gliela posso portare, magari piano piano, che sono dritto e sforzi non le faccio, ma altre cose non le, sulla scala non è possibile assolutamente, per cui ancora non ci scendo, ma fra una settimana comincio a portare, per cui scendo quando mi sento bene, quando non mi sento bene non ci scendo, e così devi fare il Bubacchi. Ah, Fucidini, paghi e te la fai fare, e non c'è altra consoluzione. Per la salute si fa quello e altro. Tanto mi ti dirà, non ripeto una maniera e ripetere l'altra, per cui quando si può fare bisogna farla. Vai a te. Sì, a posto, una moto sega. La vecchiaia è carogna, domani è carogna la vecchiaia. Oh, due, da sotto, una moto sega, non ci noate a nessun luogo, beanna. La moto si beve un po' di vene, fa un fuoco, avanti, giuro. Ok, grazie un po' con tu tragico, tu subito con la moto sega. Anche non ti dai l'anche della banca di casa tua, te la baci. Se ti puoi posare il banchetto, mamma mia. Anzi che stai dando l'hai pure di amici. Grazie. Ti fermo una banca in ciliegio, oh Giulio, con l'albero di Gian Maria. Ciao Maria, e te, e te, scherzi, se metti te alle canta, chiccio, bobo. Ehi, uia, per carità, ragazzi, non se ne va a fare le pile nell'ana. Non riusciamo a bloccarlo questo Graziano. Ogni tanto ricoppia già una. Però ormai lo conosciamo e lo siamo cantati. Là ti fa vedere, gatta, lei comincia a fare vedere, non la fini più. Che ci vuole aver fatto cronista giù, cronista del mestiere suo, e deve essere stato cronista, no autista o mezzo falegname, per carità. Per carità, riprendi Bacchi. E la campagna suia, faremo, ne tagliamo tutto. Ma che? Edu andava a fare lo strillone, come ti andava nei baricarrieri e si pulivano a secchirli a far finì, a tenere in mente gli omari, che facevano da sieni rubando in tempo antichi. E fare lo strillone andava bene, Graziano. Ehi, dare fatto pure i Sassari a cantare in teso, io magari non l'ho conosciuto in Sassari, poi di paesi già l'ho conosciuto che su quella tromba scia da Zeruando. E poi già si vanno fatto pure i Sassari, capita, io più via. Ma io ero vestito minori, dunque, pure i Sassari già l'ha avuto lo strillone, non vi danno problemi, non si manca niente a noi, Sassaresi. Marici, sì. Ciao Marici, andiamo a Monteone, tagliamo gli alberi a Graziano. Ma poi ci finiamo la legna. Ma che tanto, Graziano? A cosa vendiamo? Se è ciliegio, fermo panchi, cadrei, busatoci, sgabelli, vero Giulio? Giulio è in ferie, non può fare più nulla, vero Giulio? Ah, io sono in pensione, dunque non posso più nulla. Grazie, ormai il legno non ci ho trovato tutto io, non c'è più un legno da trovare. Il posto è una legna, abbiamo chissà di Gio Maria e chissà di Bacchizio. Beh, anda Bacchizio. Ma non farmi già il mio cliente, mi sono pagato, Bacchizio. Aspetta che mi sta a padrona. Davvero mio, che fa la campagna dove si fa un campo sportivo, così al manco, tu neanche si la fitta, bisogna bastiti che fanno, o campo da tennis. C'è gente che ci vive a Sassari con, dando in affitto i campi sportivi. Parecchia gente abbiamo visto. Non c'è mai solo dei campi da tennis. E la sera c'era la vengono un montone di macchine. Donne, ragazzi, uomini. Perché non si viene a giocare? Sono dei campi, vengono l'ordinanza e passano la serata. Qua avete mandato qualcosa a WhatsApp in giù, con un cama che lo riguardi. Avanti, Giovanni. Ok, ma quelli campi sportivi sono per il biodinamo in barea, va. Ora, vedete, Urivi, sta Camilla attaccata alla Isia. Catta, si vede. Sono cresciuti, catta, pure i ganni, sono cresciuti in mezzo allo campo, ti puoi immaginare. Tutto abbandonato, catta, è un peccato questo campetto, E prima nei video ogni sera faceva le partite lì, avevano, oh, chissà dove li fanno, questo è un campo abbandonato. Non so di carei, forse delle, di quel pollaio che c'è a San Camillo sull'acqua, forse i chivi, di chi si doveva sì? Giovanni, lì veniva a giocare mio cognato, perché c'era il cognato, diciamo il marito della moglie, della sorella di mio cognato, era presidente insieme al padre, poi non ricordo chi era, non ho capito altro. Questo lavorava al comune, era tanto il comune che aveva fatto avere quel campo, era bello ordinato, era sempre attivo, adesso è tutto abbandonato, così è, domani. Infatti, beh, un giamaccio in rua è cresciuto, ma non hanno fatto più, non l'hanno nemmeno pulito più, era bello, c'era la luce, c'era i fari anche, alti, anche di notte, e vanno tutto abbandonato, ma... Guardi, via dai per vedere una cosa del genere, a manco la buccia non pulizza, no altro. Purtroppo è così. Ma pure visto i campetti, questi aperi giochi sono travaglianti di tortura, Io alla base di San Camillo mi pare che sono due o tre, e io sono travaglianti, però forse sono puliti, sono attrezzati, ma chi ci dice San Camillo proprio, per carità, quasi pietà, l'hanno abbandonato proprio, ecco. Vai, Bacchi. Ragazzi, scusate, ma io vi saluto. A domani, se coincide, salutoni circolari a tutti. Riprendi, Bacchi, ciao. Ciao, ragazzi, ben sentito, a domani, salutoni al signore, avanti Giulio. Ok, ciao, ragazzi, a domani. Salutoni, grazie per la chiacchieratina. No, noi qui alle punte già stiamo bene, ce ne sono tre o quattro di campi, uno è di pallavolo, l'altro è di rugby, e poi abbiamo il campo di calcio, ma quello l'ha fatto il comune, quello del campo di calcio l'ha fatto il comune, ma ci sono sempre, c'è la squadra comunque che ce l'ha in gestione, e per cui i punti, e poi c'è anche più in là, salendo verso la parte alta dei punti, c'è il campo della Biblia, quello di Roberto Quadrato, dai, è il padrone, lui, e lì ce ne sono roba di 4-5, ce ne sono, c'è il campetto per il calcio a 5, c'è il campetto per i ragazzi e c'è il campetto per i più grandi. Per cui a voi da campi, no? Un bel venneggio, Marì. E poi ci sono quelli di fronte al Panizzano, oggi che sta lavorando bene, quelli di fronte al Panizzano, su quei campetti. Poi ce ne sono anche giù, verso Virgilio, poi ci sono i campi della Gazzosa, capito? Ce ne sono decine di punti di campi, avanti, Giovanni. E sono sempre pieni. E un giorno mi hanno invitato al campetto mio figlio, che dovevano fare la partita, abbiamo cenato lì pure, c'è anche una specie di tavola calda, è molto segnoso di fronte all'ex malicomio, come che stavano facendo giù. Di chi è quello lì, sulla destra scendendo? Un attimo giù, quello lì è di Caterina, la Gazzosa, Caterina è quella che abitava vicino a me, diciamo, là. Solina, sposata con la Gazzosa, sposata. E appunto c'è un bastano, io lo so perché la conosco e le faccio, vado a tirare la roba della plastica, non fanno dei campetti. C'è un bel coso, appunto, cucino, grigno, feste e così via. Avanti, giù. Aspetta, giù. E infatti, ti ho detto, mi hanno invitato, siamo usciti, è attrezzato quello lì. Sono due o tre campetti proprio, uno attaccato all'altro, anche quelle della pallavolo. Cioè, ho visto che bel campetto hanno fatto lì. Poi c'era il piccolo ristorante, mi sembra che c'era un ristorante quello. Noi abbiamo mangiato fuori però, abbiamo mangiato fuori perché eravamo in assate e ti dico che siamo stati bene la notte. E quello lì evidentemente lavora abbastanza bene pure. Poi lavora anche di bene una volta, in attimo piove, lavora benissimo. Guarda che è stato molte volte che le prenotazioni è strappieno, è strappieno di prenotazioni perché organizzano tornei e così via, capito? È pieno. E poi ci sono gli altri campi, no? Sono i campi di base, diciamo, di base, più giù. Diciamo che l'hanno presi due ragazzi, ma stanno facendo piantare e basta, avanti giù. Ok, infatti ci sono poi anche quelli, ma quelli ci sono proprio di 20 anni già, nei campi di Salvucci, diciamo, dai, di Atomo, e lì il fratello di Walter, lì lui ce li ha il campo, guarda, molto bene. Sono da tantissimi anni quindi, sempre attivi. Oh, già lavorano tutti, lo sport, la gente la sera, Gio Marì, non sa cosa fare, magari organizza fra amici una partitella così, vanno lì, si fanno la mangiata e si fanno anche la partita, per cui si divertono così, capito Gio Marì? Ma infatti, mio figlio mi ha invitato a scendere giù, lui, avevano la partita e per cui siamo stati bene la sera, per un bel punto, un bel posto, per cui siamo stati veramente bene, ecco. Abbiamo cenato la notte e sono stati veramente bene, così ce ne saranno magari tanti altri, io non li conosco tutti, quello lì perché ci ho frequentato un paio di volte, ma gli altri non li conosco perché al calcio a me non mi piace tanto, però siccome c'era mio figlio che è appassionato per questi campetti, va sempre a fare queste partite tra amici, allora mi ha detto andarci, c'è venuta anche mia moglie, ti puoi immaginare. Per cui eravamo in parecchie famiglie, abbiamo passato una bella serata veramente. Da, fa piacere quando è così giù. Eh beh certo, no, e poi lo sport è salute se vogliamo, dai. E solo che c'è questo da dire, che non c'è più quello spirito di sacrificio come una volta, però diciamo che le persone che hanno ancora voglia già frequentano il campo sportivo. Sempre quello c'è neanche uno di fianco alla chiesa, qui a Ripunti, per cui si può immaginare, ma quello è per i bambini, è proprio per i bambini, e lì si divertono. Proprio di fianco alla chiesa c'è un campetto, non è grande, è piccolino, ma lì sono per i bambini, quelli che giocano, anziché giocare per strada, se ne vanno lì e si divertono anche loro col pallone. Certo, e anche qua c'è all'altra voce, ce ne sono tre o quattro mi sembra, e ci sono anche quelli dei bambini, so che le salette dove i bambini giocano e certe volte ballano tra ragazzi eccetera eccetera, che è una cosa bella, dai. E certo, chi ci può andare adesso? Ui, dove vai? Dai, andiamo, già usciamo qualche sera così, ma e chi ne ha voglia più giù? Ui, ah. No, ce ne più voglia, no. Già abbiamo girato quando eravamo più giovani, per cui adesso lasciamo ai ragazzi che si divertono, e perché oggi i ragazzi è solo per divertirsi e basta, tutto lì. Ma chi, se a te vai. Io sì, ho ricevuto la foto, ma chi, bellissimo, bellissimo, va bene. Va benissimo, ok, ti saluto, dottor Sino, ci vediamo domani, dai, avanti giù. Ok, ciao Bacchi, grazie per la chiacchieratina, dai, a domani, se coincide, così almeno, poi già lo sai dove trovarmi, per cui, quando ti fa piacere, visto che sei a riposo adesso, in questo periodo, per questo strappo che hai alla spalla, perché, ma camminare e puoi camminare, no? Sembra una passeggiata, non sai dove sono. Ci sentiamo, ciao Bacchia, alle prossime. Riprendi, c'è ancora Graziano, non lo so, Graziano ci sei. È andato via, avanti Giovanni. E infatti era andato via, ciao Bacchi, sentiamo, buon proseguimento. Non fare niente in campagna, guarda e basta. Ci sentiamo, saluto anche in casa, Bacchia, e poi io pure ne approfitto giù là. Eventualmente, se Dio vuole, ci sentiamo domani, un altro pochettino, e per cui ogni tanto almeno 10 minuti fa piacere giù a farci una chiacchierezza. Non è che c'è tanta Puglia, però chiacchierando la Puglia già viene sempre. Ok, giù, ti saluto, grazie di averti sentito. Ida Marino, buon proseguimento di serata anche in famiglia, e per cui Gio Maria chiude, a domani. Ok, riprende Giulio. Ok, ciao Gio Maria, ricambiate il tutto al 100%, grazie a te per la chiacchierata e per essere entrato, visto che quando sono entrato tu non c'eri in frequenza, ma probabilmente c'eri da prima, e mi ha fatto piacere di sentirti. Dai, ciao Gio Maria, al prossimo, saluti in casa. Vai Maria. Ok, Rodio, ciao, domani, per sentito, domani ci sentiamo, dai. Bene, oggi stiamo andando con qualcosa su Estati, non era mia, è del mio confinante. Ora, se ti interessa, poi se c'è qualcuno che interessa, è un'occasione, sono quelle due punte e il valore che dopo dico al prezzo. Ok, anch'io chiudo dove sta. Giù, mi chiamano nei posti, oggi la voglio scherzare, voglio giocare. Bene, avanti Giulio, ci vediamo domani se caso, dai. Ok, ciao Maria, alle prossime, dai, se sento non già ti faccio sapere. D'accordo, ciao Maria, grazie anche a te della chiacchierata, saluti in casa anche a te. Ciao, ci sentiamo, ciao. Ok, ciao ciao. Giancarlo, ci sei? Giancarlo. Giancarlo, Giancarlo, ci sei? Ti sento Ruffo, non mi tu sei. Ti sento Luca. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.